fare, diciamo così. Il giorno prima. Il giorno prima, esattamente. Tra l'altro quest'anno è anche cominciato un giorno prima, quindi... Bene. Questo talk io non l'avevo preparato per Upmeeting, questo è del 2016, quindi queste slide sono stagionate e collaudate e le ho tirate fuori per parlare un po' di questo argomento che passa un po' inosservato. E vediamo poi cosa cambia tra 2016 e 2023, 7 anni, se le previsioni che avevamo fatto quella volta sono attendibili, non sono attendibili o come si sono svolte. Cominciamo. Io sono Michele, conosciuto anche come PHCV. Per chi conosce, io sono dei tempi di Spaghetti Freakers, Screw, Zappolandia, tutto quel giro lì di gente che un po' ormai si è persa. Qualcuno mi conosce perché io solitamente agli eventi di questo genere giravo con un Tesla Coil, qua una foto di un po' di anni fa. Qualcuno mi conosce perché faccio anche quelle cose lì brutte con le antenne. E di cosa parliamo? Parliamo dei cambiamenti del traffico internet in seguito all'evoluzione del mercato dello streaming. Questo è un talk che era nato per un'occasione diversa, non tecnico, era orientato a un pubblico più commerciale, quindi a dei commerciali di un'azienda, ma sicuramente ci si può fare alcune riflessioni. A me piacciono i numeri, piace vedere i numeri, piace capire le cose. E sono partito, dispiace che sia storto, sono partito da questi. Questi cosa sono? Questi sono i grafici degli Internet Exchange, quindi i punti di scambio neutrale di traffico in giro per l'Europa, dove appunto i vari operatori, i vari carrier si scambiano il traffico. Sono dei grafici così che guardati a prima vista, sì, dicono poco, dicono tanto. Ho preso Amsterdam, Milano, Torino e Six, Sardegna, che tra l'altro adesso non c'è più. Sono dei grafici che bene o male hanno un andamento simile, come potete vedere, perché chi fa traffico lo fa bene o male con dei template standard in giro per tutto il mondo. Sono dei grafici presi sulle 24 ore circa, comunque l'ordine di una giornata. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che hanno, a parte l'andamento bene o male simile, comparabile quindi in tutto il mondo, possiamo vedere delle particolarità che fino a qualche anno fa non c'erano. Io questo, come dicevo prima, è del 2016, quindi ve lo sto dicendo come l'ho detto allora. Poi vediamo un attimo cosa è nato da questo. Cosa sono queste particolarità? Vediamo che in determinate fasce orarie, ok, mi va benissimo, accetto tutto. Ok. Vediamo che in determinate fasce orarie c'è un picco di traffico, questo qui, che si ripete, vedete, c'è uno scalino più o meno costante, poi attorno alle ore 20, che corrisponde alla freccia, c'è un picco di traffico comune in tutti gli Internet Exchange. Cosa sono questi picchi di traffico? Questi picchi di traffico, bene o male, sono dovuti al fatto che a quest'ora la gente finisce di lavorare, torna a casa, accende lo streaming, comincia a guardarsi quello che al momento viene offerto via Internet. Vediamo una piccola particolarità, se andiamo a fare uno zoom ulteriore, che è questo. In questo particolare giorno, se vedete, c'è un picco di traffico, che è paragonabile bene o male in tutta Europa. A cosa è dovuto questo? Questo è dovuto alla partita Belgio-Italia che c'era quel giorno. Quindi si può benissimo vedere che in occasione di eventi che raccolgono un particolare traffico aggregato, ci sono dei picchi. Questi picchi adesso qui, se noi poi, qui sembrava un picco enorme, stiamo parlando di circa un incremento di 40 gigabit per secondo, all'epoca sembravano tantissimi, col se noi poi dopo 7 anni erano niente, magari fossero ancora di quel livello lì. A cosa sono dovuti? Beh, vediamo un attimo come si è evoluta la situazione. Parliamo di 20 anni fa, 30 anni fa, 10 anni fa, riferito al 2016, che ne aggiungete di più 10. Chi è che forniva i contenuti fino al decennio scorso? Le emittenti televisive, quindi radio, televisione, tutti i vari canali, Sky, adesso nel frattempo ha cominciato anche la parte streaming, all'epoca non c'era. E cosa avevano di differenza? Quindi questo era chi forniva il servizio e questo era la... scusate, ed erano queste le modalità di acquisizione, quindi televisione e radio. Quindi c'erano dei concentratori che inviavano informazioni e altri che le ricevevano. Adesso, invece, se andiamo a fruire di contenuti, stiamo parlando di questo, quindi streaming, video, Apple TV, tutti i vari vendor che nel frattempo sono nati. E chi fornisce i contenuti non sono più quindi gli studi TV, per capirci, con le emittenti TV, ma sono i vari streamer, chiamiamoli così, online. Tra l'altro sono anche cambiati in questi anni, ma comunque in linea di massima sono sempre questi. Cosa è cambiato a livello di infrastrutture e trasmissioni, invece? Beh, un po' di anni fa, se noi dovevamo mandare contenuti in giro per l'Italia, l'Europa, alla fine cambia un poco, questi erano i siti che andavano a inviare le informazioni, i dati, quindi un ripetitore per area geografica che mi copriva magari mezza regione, e per ricevere il segnale avevamo questo, quindi tante belle antenne, brutte antenne, sparse in giro per la casa. Adesso invece cosa è cambiato? Beh, adesso... se noi dobbiamo fornire le informazioni, non abbiamo più un'antenna che trasmette la televisione in analogico, in digitale, sì, c'è ancora, ma ovviamente sta perdendo sempre più piede. Sono questi, quindi i vari fruitori di servizi di internet, o carrier, vi ho messo una foto con i principali dell'epoca, Open Fiber all'epoca non c'era ancora, quindi non c'è neanche, per la parte fissa, mentre per la parte mobile abbiamo questo come metodo di consegna delle informazioni. Anche qua manca 5G, perché all'epoca, figuriamoci, questa slide nemmeno se ne parlava. E non ci sono più invece a livello di trasmissione gli studi TV o comunque le sale regie vere e proprie per la trasmissione, ma questo, data center. E cosa cambia? Cambia sostanzialmente a livello di gestione. Come funziona una volta? Una volta, se io devo mandare in onda un film, dico a caso, c'era un programmatore, non inteso software, un programmatore TV, che decideva il programma, andava a prendere il nastro, il disco, quel che era, lo inseriva in regia e lo trasmetteva, quindi una soluzione non on demand, bensì ovviamente programmata. Ovviamente adesso invece è tutto on demand, quindi se io voglio vedermi il mio contenuto me lo vado a scegliere, non ho bisogno di una programmazione fissa, me lo posso andare a prendere quando mi pare piace. E... come arrivano adesso queste informazioni? Le informazioni, allora, come ho detto, arrivano o via cavo con i vari operatori che avevamo visto, arrivano pure via radio, come dicevamo, questa è una mappa di copertura che avevamo fatto all'epoca. Parliamo un attimo appunto di come arrivano queste informazioni, perché se prima arrivavano in, chiamiamolo così, un... multicast all'antica, quindi io trasmetto in analogico un unico punto di trasmissione, mi possono ricevere 1000 persone senza necessità infrastrutture se non appunto l'antenna sul tetto, le cose sono evolute, perché adesso ovviamente essendo traffico dati, questo traffico avrà un impatto sulla rete di trasporto. Per capirci, per capirci, ho preso l'esempio di Netflix, adesso i valori sono di 7 anni fa, non so se siano aggiornati, ma se io voglio vedermi il mio film in streaming, a seconda della qualità ho un volume di traffico impegnato differente. Partiamo da le qualità basse, che sono 300 megabyte all'ora, media 700, high 3 gigabyte, super qualità ultra HD, cos'era all'epoca, come lo vendevano, 7 gigabyte all'ora di traffico, che sono dei numeri non differenti, anche perché se andiamo a vedere partiamo dal livello dell'utente. Io mi guardo il mio film in streaming, faccio 6 megabit al secondo in media con la qualità umana, quindi dal mio cellulare, il mio computer, la mia TV, quello che voglio, vado al mio router con flusso da 6 megabit. Poi, ovviamente, facendo una stima di un 60 persone per area di raccolta, in questo caso la classica colonnina, vuol dire che io mi ritrovo che per ogni area geografica di raccolta ho un flusso di circa 380 megabit al secondo. Poi, ovviamente, tutte le varie aree di raccolta confluiscono in centrali locali più di zona più ampie e, facendo sempre una stima, per ogni centrale di raccolta io ho 3 gigabit di traffico per ogni centrale, che è un volume chiaramente non indifferente, che si vede dal grafico famoso che abbiamo visto all'inizio, che in occasione appunto di eventi particolari mostra dei picchi importanti. E qual è la soluzione? Perché chiaramente questo arriva a 3 gigabit al centrale, ma il server di Netflix, che è l'esempio che ho fatto, come fa ad avere tutta questa banda? Sicuramente non è questa la soluzione. Cioè, la buona notizia è che abbiamo risolto il tuo problema di banda e ti porto un tubo grande così con internet. No, perché questo ovviamente non è fattibile, andare a concentrare tutto. Come è stata risolta negli anni questa situazione? Sempre facendo l'esempio di Netflix, si è pensato di delocalizzare, decentralizzare i vari flussi di informazione. Quindi se io sono Netflix, la sede negli Stati Uniti, certo non mi vado a portare il traffico dagli Stati Uniti fino a qui per 50 utenti con 50 flussi differenti. Quindi cosa hanno detto? Andiamo a distribuire questi Open Connect Appliance, poi di Open penso ci sia ben poco, ma tralasciamolo, e dove di fatto se tu hai un flusso di almeno 5 gigabit locali, quindi io operatore ho 5 gigabit di utenti che mi fanno streaming video, posso chiamare Netflix e dire: sono Netflix, mi spedisci gratuitamente uno di questi cosi, che erano delle macchine anche all'epoca, sembravano anche performanti, adesso ovviamente sembrano piccoline, però comunque dove con uno storage abbastanza locale importante mi gestivano la cache locale. In questo modo evitavo di andare a crearmi tutti i problemi di collo in bottiglia che riportavano chiaramente a questa situazione qua. Stessa cosa come Netflix, ce l'hanno, l'hanno fatta anche tutti gli altri ovviamente. C'è Google, che anche loro all'epoca fornivano questa soluzione qui con una cache locale. C'era Akamai, che era l'altro fondamentale vendor, che andava a offrirmi il servizio appunto di streaming e di content delivery. E cosa sfugge a tutto questo però? Perché è bello, io mi pago il mio abbonamento a Netflix forse, e ovviamente tutto il mio traffico viene centralizzato. Cosa sfugge da questo? Da questo sfugge sicuramente questo, l'IPTV, tutta la parte diciamo più o meno diversamente legale, chiamiamola così, dove con i miei 5 euro o qualche satoshi al mese mi viene fornito tutto il flusso completo. Questo cosa vuol dire? Siccome sono servizi chiaramente non centralizzati, non legali, giusto per dirla in modo diretto, sfuggono da tutta la parte di content filtering e caching soprattutto di vari operatori, e sono quelli che di fatto, specialmente nell'ambito di partite TV, ti mostrano il reale andamento del traffico internet. Io sono operatore di telecomunicazioni, io non ho la più pallida idea di quando sia una partita, non seguo minimamente, però lo vedo perché mi arrivano gli alert sul cellulare che la banda ha superato la media quotidiana o settimanale o quello che è. E questo infatti, vediamolo un attimo, lo possiamo vedere anche qui su un, non si vede bene adesso coi colori, questa era un'analisi fatta su un traffico mio. Stiamo parlando che su un'analisi di una mezz'ora, su un totale di 670 gigabyte di traffico, avevamo uno streaming di 3,1 gigabyte, che era quello sostanzialmente ufficiale, quello che passava per gli operatori classici, e avevamo una parte di traffico Sopcast, che è quello che mi, in questo caso questa regola mi mezzava tutto quello che era flusso video di broadcast, ma che non passava per operatori ufficiali, che mi raggiungeva il 70%. Quindi già all'epoca c'era una suddivisione abbastanza netta fra legale e illegale. E questo grafico qui è un grafico che aveva fatto Cisco, questa è un'analisi di Cisco del 2015-2016, se non mi ricordo, dove faceva una stima dell'evoluzione del traffico negli anni successivi fino al 2020. Adesso siamo nel 2023, queste slide, come dicevo, sono già ben collaudate, quindi possiamo anche andare a vedere di cosa si è trattato. Io ho cercato stamattina, perché ho improvvisato la slide dello stesso grafico, ma Cisco non ha fatto la stessa analisi di recente. Però cosa possiamo andare a vedere? Qui finiva appunto la slide dello scorso anno, della scorsa volta, e dopo 7 anni, nel 2003, cosa possiamo andare a vedere? Io sono andato stamattina a prendermi gli stessi grafici, quindi gli stessi tre, in questo caso Internet Exchange di traffico, e ho fatto le considerazioni che effettivamente non avevo neanche io visto ancora 7 anni fa. Guardiamo ad esempio, prendiamo Amsterdam, stiamo parlando che il picco di traffico era di 4 terabyte al secondo. 4. 4 e mezzo, qualcosa del genere. Adesso siamo a... Non si legge bene, altro come ero qui. Siamo, il picco è a 10 terabyte per secondo. Uguale, se andiamo a vedere tutti, hanno più o meno raggiunto un per 3, per 4 di incremento. Non sono riuscito a preparare la slide con un'analisi come quella che avevo fatto prima della percentuale, ma ho visto una cosa importante guardando, non sono riuscito a tirare giù gli screenshot, non ho fatto a tempo. Cosa è successo sostanzialmente? Questo è successo che è stato censurato con tutti i vari decreti che sono avvenuti negli anni per fare gli interessi di qualcuno, tutti i vari siti di streaming più o meno legali, e questo si è riversato su una diminuzione del grafico, cioè questo grafico che mi diceva 69% di streaming illegale, passatemi il termine, adesso ho fatto un'analisi stamattina guardando le ultime 24 ore sulla mia rete, siamo passati da un 60% a un 15%, e mentre lo streaming legale è passato attorno a un 40%. Quindi c'è stato in questi anni tutto un spostamento, potrebbe sembrare legato appunto alla chiusura di tutti i siti di streaming illegale. In realtà, poi andando a vedere un po', non è così. Perché? Perché andando ad approfondire, se andiamo a vedere, c'è un 30% circa di traffico che è legato al traffico VPN. Il classico, quando vai a vederti lo streaming, ti dice non puoi vederlo a questo paese, ti do la mia VPN a 5 euro al mese, 10 euro al mese, praticamente tutta la parte di traffico non autorizzato si è riversato in traffico VPN, che chiaramente essendo SSL non posso andare a vedere cosa c'è dentro, ma la stima, ovviamente gli orari riportano a quello. E cosa è cambiato inoltre? È cambiato che molti degli operatori grossi, Telcom Italia, Sparkle, Fastweb, hanno operato una logica di de-peering negli ultimi anni. Quindi se il traffico di questo genere peer-to-peer veniva sostanzialmente scambiato negli internet exchange, quindi a costo zero, e senza quindi intervento di carrier terzi, cosa è successo? È successo che questi operatori hanno detto, giusto per non far nomi, Sky, tu vuoi vedere Sky online, come si chiama, Sky Q, non lo so, bene, devi farti la mia linea, perché? Per cercare di abbattere ovviamente il costo di trasporto, perché se hai una linea tua invece di comprare il transito da un operatore sicuramente ti costa meno. E non vuoi farti la linea mia? Beh, il tuo operatore deve farsi un peering diretto con me. Questo sempre perché? Perché un cavo diretto a me operatore costa meno di comprare il transito via internet, e di conseguenza tutta questa analisi che era stata fatta è sicuramente difficile da analizzare. Perché? Perché si sta andando sempre più nel cercare di avere link diretti tra l'operatore e l'operatore, intendo fruitore di generatore di servizi video, e l'utente finale, in modo da essere più tracciabili, più economici, ma questo non è il punto, appunto riuscire a eliminare tutta la parte di mercato diversamente legale che era stato fatto fino adesso. Non sono novità, tutte le censure sono state fatte a questo punto di vista al proprio livello di legislazione verso gli operatori per bloccare il traffico di questo genere. E cosa dire? Le stime del 2017-16 con la slide erano più che ottimistiche, perché il traffico è aumentato in una maniera impressionante, si sta andando sempre più in quella direzione, e appunto lo streaming internet sta prevalendo quasi completamente sulla parte TV, e chiaramente vengono sempre più abbandonate le infrastrutture tradizionali. Però c'è da dire che la rete tutto sommato sta reggendo, perché se 7 anni fa ci ponevamo il dubbio come si evolverà questa situazione, se io comincio a saturarmi per vedere le partite, fortunatamente e sfortunatamente questo settore muove tanti soldi, e di conseguenza sono riusciti in modo più o meno congruo a espandere le infrastrutture in modo da mantenere un equilibrio anche sulla parte di trasmissione appunto verso l'utente finale. E basta, tutto qua. Se avete domande su come funzionano queste cose, questo non è tecnico, chiaramente era una chiacchierata che avevo fatto con appunto la presentazione verso commerciali, però se avete domande tecniche, più che volentieri. Poi magari puoi ripetere la domanda. Non è una domanda super tecnica, però l'idea è... Microfono alla domanda. Ha detto se la potete fare. Non voleva parlare uguale, lui. Uguale. Cioè, non è una domanda super tecnica, però quando appunto facevi riferimento prima al insomma al fatto che all'operatore costa di meno tessere, fra virgolette, tendere un cavo di rete diretto senza passare per un IXP. Cioè, quindi significa che un internet service provider in quel caso ci mette, diciamo, parte della sua infrastruttura privata, e quindi c'è un accordo tra fornitore di contenuti e ISP. Questo intendi, vuol dire che da un certo punto di vista si sta andando in questa direzione, perché i dati che hai mostrato ovviamente fanno riferimento agli Internet Exchange. Esattamente, okay. Sì. Allora, questa è una domanda sì, interessante. Diciamo che a prescindere da questo che è legato allo streaming, il mercato internet, inteso come traffico internet generale, sta andando in una direzione un po' particolare, perché il peering, che fino a un po' di tempo fa era quello peering pubblico, quindi vado al Mix, vado in Olanda, vado a Francoforte, mi attacco il mio peering, faccio peering in tutti quelli che ci sono, sta perdendo piede. Perché? Perché si sta centrando tutto sulle mani di grossi operatori che non hanno alcun interesse a scambiare traffico gratuitamente. Hanno costruito il modello e-business scambiando traffico gratuitamente per gli ultimi 20 anni. Poi a un certo punto si sono svegliati gli ultimi 2-3 anni e hanno detto: ah, che bello, stavi facendo 100 gigabit al secondo verso IME gratis, dammi 30.000 euro al mese oppure non lo fai più. Questo sostanzialmente è quello che si è svolto negli ultimi anni. Quindi cosa è successo? Il peering pubblico sta diminuendo man mano, i grafici sono comunque interessanti perché sono triplicati i dati del peering, però non sono tutti, perché appunto prendo l'esempio della partita di calcio. Se io voglio vedermi, non so neanche come si chiami la Serie A adesso, lo so perché vado a passare le mail tecniche, però non vado più a dire chi è che fa la partita con i server, sono dietro a Sky, non a caso. Non è più Sky che consegna il suo traffico pubblico verso tutti gli operatori, tutti i clienti e gli operatori sull'interchange, ma Sky mi dice: ti do un cavo, mettiamo su PIM per fare appunto multicast, in routing multicast, io ti consegno un flusso video e poi da questo flusso video tu te ne tiri fuori 1000 quanti te ne servono in multicast all'interno della tua rete. Quindi all'ISP dove devi pagare sostanzialmente, perché nel caso migliore devi comprarti la patch, nel caso peggiore ti fanno pagare anche il canone, anche perché se Sky va a parlare con Pasto, che dico nome a caso, probabilmente hanno un duplice accordo in cui conviene a tutti e due, si fanno il prezzo di favore a vicenda. Ho bisogno io di far vedere le partite ai miei clienti, sicuramente a me fare un prezzo decisamente diverso. Perché? Perché loro non hanno nessun vantaggio. Ed è il problema del peering in Italia, in generale, oltre a questo. Basta guardare Mix Milano Interchange, è nato all'inizio come un consorzio in cui siamo tutti amici, siamo tutti felici, ci vogliamo tutti bene, e tieni il cavo, offrimi una birra. Questo non è proprio così, ma è il riassunto sostanziale di quando è nato. E adesso, per essere all'exchange di Milano, comunque 1000 euro al mese te li chiedono, traffico escluso tra una cosa e l'altra. Quindi è tutto il modello, il business che sta muovendo verso la direzione di concentrare le attività verso pochi grossi a discapito dei piccoli. Qui potremmo andare avanti a parlare di per un'ora su Open Data, su Open Peering, su trasparenza digitale, sulle porcate che stanno facendo sui DNS, sulle porcate che stanno facendo adesso con la legge nuova che è passata il mese scorso sul content filtering, dove tutti gli operatori, per fortuna di una fascia medio-alta, sono obbligati a fare content filtering a protezione dei minori ufficialmente, dove poi però se vai a vedere c'è una porcata dietro, perché avevano chiesto che i venditori di streaming video potessero operare direttamente sui router degli operatori per bloccare il traffico. Cioè, sì, è incommentabile. Cioè, Sky dovrebbe poter venire da me e disattivarmi un utente se fa qualcosa che non mi piace, che se vuoi pensarla dal punto di vista economico, può aver senso, però dopo saltano fuori tutte le conseguenze di non mi piace che venga fatto l'hack meeting a Reggio Calabria, allora cosa faccio? Ti blocco il sito dell'hack meeting da tutta la zona geografica della Calabria, dico una cosa a caso, cioè sì, potremmo andare avanti a parlarne appunto per ore di questo. Sì, io ti volevo chiedere una cosa che non mi è chiarissima. Tu hai parlato di SP, però adesso ben capito com'è che funziona negli ultimi anni tutto questo. Cioè abbiamo degli attori tipo Open Fiber, FiberCop, che sono quelli che mi danno l'infrastruttura di rete fisica. Fisica, sì. Poi c'ho degli SP che però quelli si sono moltiplicati negli ultimi anni. C'ho i classici Telecom, Fastweb, Vodafone e compagnia, però ne sono nati anche di piccole, alcuni con esperienze buffe. Faccio consulenza. E cioè, in tutto questo qual è il ruolo di questi cioè qual è la relazione fra Open Fiber ISP di dimensioni più o meno differenti e tutto quello che ci dicevi, cioè non ho capito cioè Open Fiber va considerato come ISP o è una cosa ancora differente? Non c'entra con questo, ma ne parlo più che volentieri. No, assolutamente. Sono cose divertenti che ben pochi sanno, specialmente alcuni svolti su Open Fiber. Allora, com'è nata questa cosa? Open Fiber è un mondo molto, molto, molto particolare. Open Fiber è un carrier. Okay. Open Fiber com'è nato? È nato attorno al 2014 come delibera di Conte, forse adesso neanche mi ricordo chi ci fosse al governo. Comunque è un operatore carrier nato per volontà pubblica. Com'è nato? Come prima, vogliamoci tutti bene, lo Stato mette l'infrastruttura e la vende a prezzo uguale per tutti gli operatori in modo controllato per opporsi a Telecom Italia, che non è più pubblica ovviamente da chissà quanto tempo, ha un'infrastruttura basata sul rame che fa schifo, fa acqua a tutte le parti in tutti i sensi, e modernizzarla per Telecom ha dei costi folli. Quindi ha detto facciamo un operatore parallelo che mi vada a offrire il servizio di trasporto in tutta Italia a prezzo concordato. Cosa vuol dire trasporto? Vuol dire che Open Fiber copre dall'utente finale, quindi dalla singola unità immobiliare, quindi la colonnina che c'è qui, dico a caso, fino a un POP Open Fiber. Quindi l'operatore ISP, che sia io, che sia Iliad, che sia chi cavolo c'è, Wind 3, eccetera, compra da Open Fiber il trasporto, può essere attivo, passivo, GPON, una marea di roba, da casa cliente fino al POP. E poi l'operatore deve andare a attaccarci la sua rete al POP. Di conseguenza, Open Fiber fa solo la parte fisica, l'operatore fa tutta la parte logica. Open Fiber è un progetto che è nato bellissimo. Io sono stato il secondo operatore in Italia, il terzo operatore in Italia a avere gli accordi con Open Fiber ancora nel 2016. Progetto bellissimo, nato malissimo. Come è nato? Lo Stato ha detto dobbiamo fare la rete nuova in tutta Italia. Chi la fa? Bella domanda, chi la fa? Facciamo un bando, vediamo chi la fa. A questo bando ha partecipato Enel. Open Fiber è nata come spin-off di Enel. Molte mail di chi lavora in Open Fiber sono ancora @enel.com, giusto per dire. E Enel ha detto, ok, grazie Stato, a me servono i soldi per fare questa rete. Cassa depositi e prestiti. No, cassa depositi e prestiti è arrivata dopo. Ah. E Enel, lo Stato ha detto, ok, i soldi li ho io. Come faccio a farteli avere però? Perché non posso finanziarti direttamente a Enel che sei privata. Cosa si sono inventati? Il canone RAI in bolletta. Questa è una cosa, la sanno molto pochi, e hanno detto, ok, io Stato ho una percentuale che non è RAI, che è statale, del canone che viene in tasca a me, come faccio a farti questi soldi? Mettiamoci il canone RAI in bolletta, che è lo stesso periodo se fate due conti. E di conseguenza Enel si è incamerata il canone RAI, ha realizzato l'infrastruttura fisica, ha cominciato a realizzare l'infrastruttura fisica, per poi restituirglieli man mano allo Stato con dei giri che neanche voglio sapere. Poi, stiamo parlando del 2016, appena nato Open Fiber, 17, hanno finito i soldi, perché il progetto che avevano fatto non era minimamente sostenibile. Bellissimo progetto, ma servono soldi. Se devo spaccare le strade in tutta Italia, servono soldi. A quel punto è subentrata Cassa Depositi Prestiti, che ha detto, bene, entro io come partecipazione. E acquisito una partecipazione importante di Open Fiber, dove prima era maggioranza Enel, CDP c'era già in piccola parte, l'ha acquisita in buona parte CDP. E c'era Cassa Depositi Prestiti ed Enel. Le cose sono andate benino per un po', e poi, siccome è business, hanno deciso che questa cosa andava fatta fruttare, avevano bisogno di ulteriori soldi per investimento. Cosa hanno fatto? Hanno venduto, non la maggioranza, ma comunque mi pare attorno al 40%, 45%, una grossa fetta, a un fondo di investimento australiano. Quindi, di fatto, l'infrastruttura qui di pubblico ha ben poco. Gli australiani hanno detto, io sono un fondo di investimento, io non voglio mettere i soldi e basta, su investimento mi deve tornare. Quindi, cosa hanno fatto? Gli ultimi 2 anni hanno tagliato le nuove attivazioni. E infatti, adesso Open Fiber, gli ultimi 2 anni, è praticamente bloccata con cose molto simpatiche, perché siccome devono rientrare nei piani programmati, tipo questo posto qui, non ci sono arrivati, perché non ci sono ancora arrivati, lo mettono come vendibile, attivabile, io operatore vado ad attivarmelo, mi dicono, no, c'è un guasto sulla rete che dobbiamo ancora risolvere, chissà quando lo risolveremo. Poi, giusto per aggiungere, un'ultima porcata è stata fatta su Open Fiber, Telecom, come al solito, sta fallendo come le ultime, penso, 50 volte. Telecom non può fallire, quindi salviamo Telecom. Ed è un anno che stanno facendo la porcata, vendendola come rete unica, di fare la fusione Telecom-Open Fiber. Quindi l'esatto motivo opposto per cui è nato Open Fiber, cioè fare una rete nuova, la stanno fondendo con TIM. Non si sa se TIM compra Open Fiber compra TIM, non lo so, non lo voglio sapere. E Flash Fiber nel frattempo aveva realizzato Team Fast per tutta la rete locale, quindi sono punti dove non c'è nulla, punti dove ci sono 5 operatori che hanno la rete, quindi Open Fiber è un po', per rispondere alla tua domanda, è un po' un casino. È nata bene, è nata come carrier di trasporto su cui gli ISP si dovevano appoggiare, alla fine adesso non si sa che cosa è nato, perché tra l'altro ha messo anche Open Internet, Open Fiber, prima era Open Stream, adesso è stato aggiunto il servizio Open Internet in cui vanno a vendere direttamente connettività, quindi Box Moving, l'operatore compra da loro la linea, non deve avere hardware, non deve fare nulla, il classico operatore virtuale dove esce tutto per Open Fiber, anche là con delle logiche di peering che lasciamo stare, perché si poteva parlarne per un'ora, ma lasciamola stare come l'hanno progettata tecnicamente. Spero di aver risposto alla tua domanda, sì, anche in modo esaustivo. Quelli che sono gli attori in un campo, che sì. Io devo dire, quando parlavi del de-peering, sì. Mi era sembrato, mi sono un po' perso perché mi mancano un po' di passaggi tecnici al riguardo, però soprattutto ti volevo chiedere se ti andava di chiarire, non so in realtà se l'hai detto e mi sono perso io, o se invece poi è un passaggio che hai un po' omesso, la parte in cui appunto il de-peering, diciamo, pubblico diminuisce, si va a fare sempre più peering nelle modalità che hai descritto. È andato quindi a diminuire il traffico che gli XP fanno in un qualche modo, diciamo, non ufficialmente, ma che esce da quelle statistiche perché rientra in altre statistiche, perché l'idea di fare multicast in realtà da un punto di vista dell'efficienza è meglio. Il problema no, poi che descrivevi tu non lo conoscevo, mi sembra validissimo, però quindi questo mi sembra che avrebbe dovuto in qualche modo mitigare il fatto che, diciamo, che le persone vedono sempre più video e sempre in maggior qualità, che quindi fa esplodere le statistiche. Lo spostamento verso questo tipo di tecnologie frena questo aumento, ho capito bene? E allora perché invece abbiamo comunque un aumento di 3 volte tanto? Allora, sicuramente questi grafici mostrano un aumento complessivo del traffico scambiato importante, 3 per in 7 anni. Il traffico pubblico scambiato è importante. Questo traffico pubblico però mi fa il giro del mondo rispetto a una volta. Perché? Perché se prima io con l'exchange andavo fino al mio fruitore di servizi più o meno legale che avevo vicino, tutta la parte di censura che è stata applicata mi ha impedito di fare transito diretto verso l'operatore e quindi passo per le VPN di sostanza, che vuol dire che sì, il mio traffico multicast è bellissimo, è comodo perché appunto con un flusso me ne faccio quanti voglio occupando il flusso di un solo utente, ce lo stanno facendo pagare, perché ovviamente questo mercato è sempre più risicato, quindi hanno detto, perché io ti devo dare il flusso gratis? Vuoi il multicast per risparmiarti tutto il traffico interno? Me lo paghi. E quindi sicuramente questo è migliorato. Di contro, come dicevo, tutto il traffico VPN, che magari per andare a prendere un video che è a Milano e io sono magari a Milano, magari vado fino a Francoforte per passare con la VPN più o meno legale, vado in Israele, vado in qualche stato strano americano dove apri la società in 5 minuti senza dire chi sei, e quindi quello è un traffico che si vede, non è però ispezionabile, perché essendo SSL ovviamente a me non vado a fargli SSL stripping, però vabbè, non è questo il caso ovviamente in traffico pubblico, sicuramente non posso vedere com'è, quindi finisce il calderone del traffico scambiato, ma non posso più dire questo è streaming, questo non è streaming. Bene, basta? Bene, spero vi sia piaciuto, è improvvisato, però di qualcosa abbiamo parlato, quindi...